Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. Focus Economia in diretta, come ogni anno, devo dire, in questo periodo, da Santa Margherita Ligure, dove questa mattina è iniziata la due giorni di lavori dei giovani imprenditori di Confindustria. Titolo anche molto forte oggi, ma soprattutto scateniamoci, liberiamo l'Italia da vincoli e catene. E saranno ospiti il Presidente del Senato Pietro Grasso, è già stata ospite questa mattina la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, che poi ci raggiungerà nei nostri studi alle 18.10 circa, e domani sarà la volta del Ministro per l'Integrazione Cécile Kyenge, e poi vi sarà anche il Presidente dell'ENI Giuseppe Recchi, l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, poi come sempre concluderà i lavori il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Numerosi temi toccati anche oggi, e di cui parleremo anche con il Ministro Giovannini, oltre che con il Presidente dei Giovani Industriali. Per quello che riguarda invece gli altri temi di questa giornata, segnaliamo una buona borsa oggi, più 1,20% Milano, più 1,80% Parigi. Per quello che riguarda Francoforte, il rialzo è addirittura superiore al 2%, 2,1%. L'America l'1,20% di rialzo sul Dow Jones, con un euro di nuovo in rafforzamento a quota 1,3222. Tra i titoli, molto bene Mediolanum, più 4,21%, Fiat più 3,21%, Mediobanca più 2,80% come Autogrill, Intesa più 2,60%, il 2,30% lo guadagna Tenaris, il 2% Luxottic, ma anche Eni, Edexore, Ansaldo, STS e G-Tech. Pirelli più 1,70 come Mediaset, e Diasorin più 1,5. Invece chi perde, poca roba, Finmeccanica meno 1,45%, Azimut meno 1, Monte dei Paschi mezzo punto percentuale di calo come Unicredit. L'altro tema grosso della giornata riguarda i dati che sono arrivati dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro, e anche di questo parleremo, nel senso che a maggio gli Stati Uniti erano molto attesi questi dati per capire quale fosse lo spartiacque dell'economia americana. A maggio ha creato 175.000 posti di lavoro, più delle attese. Qui ce la giochiamo su migliaia di numeri, non decine di migliaia. Le attese erano di 169.000, quindi sono sostanzialmente 6.000 posti di lavoro in più. Però il tasso di disoccupazione è salito al 7,6%, mentre gli analisti lo attendevano fermo al 7,5%. Tra l'altro i dati di maggio fanno seguito ai 150.000 posti di lavoro creati ad aprile e 142.000 creati a marzo. Questa mattina a Tokyo ha chiuso in leggero calo, ma soprattutto il dollaro si è indebolito, non solo nei confronti dell'euro ma anche e soprattutto nei confronti dello yen. Lo troviamo a 97,55 per la precisione in questo momento. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Gli altri mercati, il petrolio è in calo, $94,15 al barile, mentre per quello che riguarda l'oro è in rialzo a $1,417 l'oncia. Sempre per restare in tema di Giappone, di Abe Economics, che ripeto, a uno può piacere o può non piacere la ricetta del premier giapponese Abe, però non prevede solo lo stampare moneta, prevede stampare moneta, investimenti in infrastrutture, comunque investimenti pubblici da un lato, e dall'altro però anche il terzo aspetto, la terza gamba, riguarda la liberalizzazione e messa in concorrenza di vari settori in Giappone ancora protetti. È verissimo quanto dicono alcuni, che il Giappone ha un grosso vantaggio. Il Giappone ha il più grande debito al mondo, è il numero uno al mondo quanto a debito, superiore anche a quello dell'Italia, però ha un vantaggio che buona parte, la stragrande maggioranza del suo debito è in mano agli stessi giapponesi, quindi in realtà è il popolo giapponese che si autofinanzia, mettiamola così, e sente molto di meno da questo punto di vista dell'oscillazione dello spread, se vogliamo utilizzare questo come riferimento. Detto ciò, su The Hub Economics ha parlato oggi il premier francese Hollande, il quale ha espresso apprezzamento per le politiche lanciate dal premier, appunto, Shinzo Abe, e ha fatto una conferenza stampa con lui a Tokyo. Ha detto: beh, l'Abe Economics è una buona notizia per l'Europa. Nel frattempo, sempre in tema di Europa, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, oggi ha tagliato le stime di crescita per la Germania sia nel 2013 che nel 2014, e anche la banca centrale tedesca dice che molto dipenderà da come si stabilizzerà l'area dell'euro, che improvvisamente diventa importante come consumi anche per la Germania. Infatti quest'anno la Germania non andrà oltre lo 0,3% di crescita del PIL, che vuol dire stagnazione. Era prima doveva essere 0,7, poi 0,5, adesso 0,3, e l'anno prossimo, invece che fare più 1,9, farà più 1,5%, che vuol dire crescita anche se non sostenuta. Per cui anche la Germania finisce col risentire della frenata dell'economia spagnola, italiana e francese, per citare le principali. I tassi di interesse, ieri la decisione della Banca Centrale Europea di non toccare i tassi, oggi Sergio Marchionne, a margine del Consiglio per delle relazioni Italia-USA, ha detto di essere rimasto scioccato, Sergio Marchionne è chiaramente il numero uno della Fiat, di essere rimasto scioccato dalla decisione della Banca Centrale Europea di ieri di non abbassare i tassi di interesse. Ho visto la reazione dell'euro stanotte e stamattina, il suo valore è assolutamente sproporzionato, cioè l'euro che ha riconquistato quota 1,33, 1,32, alle nostre capacità economiche di competere. E ha continuato Marchionne: il livello attuale dell'euro non è sostenibile per alcuna azienda che voglia esportare. Su questo devo dire che ci sono pochi dubbi. Da sempre diciamo che un rapporto corretto, viste le difficoltà dell'area euro e anche degli Stati Uniti, dovrebbe essere quantomeno 1-1, non un euro 1,32 dollari. In questo momento c'è un 30% in più almeno di sopravvalutazione dell'euro nei confronti del dollaro, vista lo stato di salute delle due economie. Lo spread è a 279 punti, mentre, veniamo all'Italia, chiaramente la Banca d'Italia ha fatto notare che la caduta dei prestiti bancari ad aprile si è fatta ancora più forte, quindi siamo oggettivamente in credit crunch, in riduzione del credito. Stretta creditizia, meno 2,3% i prestiti alle famiglie, meno 0,8%, alle imprese invece meno 3,7%, quindi continuano a contrarsi i prestiti, soprattutto verso le imprese, e aggiungo io soprattutto verso le piccole e medie imprese. Prima o poi il governo deve portare a un tavolo le banche, gli imprenditori, le parti sociali e decidere una strategia su questo, perché capiamo tutti i dubbi delle banche, ma occorre un'iniziativa, se no i soldi di Mario Draghi continuano a essere depositati di notte alla Banca Centrale Europea o investiti in obbligazioni corporate, titoli di Stato e quant'altro, ma non arrivano all'economia. È anche vero che crescono le sofferenze bancarie, e cioè i prestiti che le banche hanno estrema difficoltà a riavere indietro, per dirla in maniera un po' brutale. Siamo al 22% del totale contro il 22,3 contro il 21,7% di marzo. La vicenda Indesit, il piano di riassetto è partito, licenziamenti in alcuni casi. Alcuni dei 25 dirigenti che l'azienda licenzierà hanno già ricevuto la lettera per trattare un'uscita incentivata. La risoluzione del lavoro avverrà in tempi rapidi, secondo le norme del contratto per i dirigenti, contratto nazionale. Per gli altri 1.400 esuberi, sono 150 impiegati e 1.250 operai, la trattativa è appena cominciata. L'azienda assicura però che nessuno verrà licenziato. Ne parleremo con il ministro Giovannini. Se abbiamo ben capito, il tentativo è di arrivare anche in questo caso a una solidarietà, quindi si lavora meno per tenere dentro tutti. Adesso arriviamo anche ai temi del convegno, però prima non potevamo non chiudere la settimana di nuovo parlando di come vengono utilizzati i soldi della pubblica amministrazione. Do una risposta subito: su 800 e passa miliardi che ogni anno spendiamo di pubblica amministrazione, sappiamo tutti che la metà sono stipendi e nessuno vuole in questo momento toccare gli stipendi già bloccati dal turnover, ma gli altri 400 miliardi, è mai possibile che non si riesca a ridurli di una cifra significativa. Cioè il piano Bondi, se non ricordo male, di Spending Review portava un risparmio di 500 milioni su 800 miliardi, ma anche su 400 miliardi. Come se voi chiedeste a vostra moglie di risparmiare perché siamo in difficoltà e lei vi dicesse: beh, questo mese risparmio 50 euro. Voglio dire, scatterebbero carneficina in casa. Un risparmio vero non è questo, per favore. E chissà perché poi ogni tanto continuiamo a raccontare anche perché non si riesce a risparmiare. E allora dai, dai. Rino Gaetano. Abbassare, non sarebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, non sarebbe più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Sono illegalizzati, tutte blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, tutte blu. Allora io dico una cosa: a Roma si vota, ognuno vota come vuole, ci mancherebbe, però con quello che abbiamo raccontato delle municipalizzate, degli sprechi, degli stipendi, dei camminatori, di tutto, ma è mai possibile che il Comune di Roma debba risparmiare e chieda 39.000 euro di aumenti arretrati a chi si occupa di ragazzi con disagi psichiatrici? Cioè, voglio dire, sono le madri, i camici bianchi, gli anziani di San Lorenzo, cioè, tutti volontari del Grande Cocomero, che è un'associazione appunto che si occupa di, tra l'altro in uno scantinato dove ha i laboratori riabilitativi per i ragazzi con disagi psichiatrici. Sono migliaia i ragazzi che della neuropsichiatria infantile dell'Umberto I passano per l'associazione Grande Cocomero. Allora, ha chiesto di portare l'affitto da 172 a 665 euro, più 39.000 euro di arretrati. Ma io dico, ma veramente non si riescono a trovare nel bilancio del Comune di Roma, con 20.000 dipendenti, con tutti i camminatori che abbiamo raccontato, camminatori sono quelli che portano le pratiche, con quello che si spende per le varie sedi, non si riescono a trovare 39.000 euro arretrati? Tra l'altro non è nemmeno corretto farglieli pagare in questo modo. Chiedo, perché non va tagliato tutto, vanno tagliate gli sprechi, le spese, le consulenze, le prebende, non il lavoro che fanno i volontari del Grande Cocomero e fargli aumentare l'affitto in questo modo, ma per favore. Mentre a Catania la Caritas, in difficoltà per aiutare le famiglie disagiate e i poveri, assediata da centinaia di richieste quotidiane, ha chiesto ai negozi e alle aziende ortofrutticole e ittiche della città beni di prima necessità da destinare a chi ha bisogno. È nata una convenzione firmata dal MASI, Mercati Agroalimentari e la Caritas. I prodotti invenduti confluiranno in un centro di raccolta e donati ai meno abbienti. Due volte a settimana appunto verrà rifornita la Caritas diocesana di Catania di frutta, verdura, ortaggi e pesce, appunto speriamo di prima qualità. L'iniziativa permetterà, e devo dire è molto lodevole, di unire la richiesta di prodotti per scopi umanitari con il recupero degli sprechi, perché parliamo di cose invendute a fine giornata. Oh, e invece la Valtour, perché lo scoop è dell'Espresso in edicola oggi, e glielo diamo tutto. Insomma, dall'inchiesta che ha portato al commissariamento della Valtour, tutti sappiamo cos'è la Valtour, villaggi vacanze di alto livello, e sul suo patron Carmelo Patti è sospettato di essere il prestanome di un personaggino che si chiama Matteo Messina Denaro. Per chi non lo sapesse, è il numero uno di Cosa Nostra, della mafia, super latitante trapanese. Beh, emergono anche nomi di parlamentari che per un decennio avrebbero goduto di vacanze gratis o a prezzi scontatissimi, da Renato Schifani a Osvaldo Napoli, da Salvatore Cuffaro a Angelino Alfano, da Simona Vicari a altri. Devo leggere tutto? Insomma, Renato Schifani con la moglie va alle Maldive nel 2008 e paga 3.400 euro invece che 10.000 e 11.100, 6.000 euro di sconto in altissima stagione. E poi Patti, sempre ospita favegnana, 24 persone nell'agosto del 2009, tra loro Schifani, il senatore Cuffaro, la senatrice PDL Vicari. Il conto sfiora i 20.000 euro, ma viene azzerato da uno sconto. Oh. nulla di illegale, no, tecnicamente possono essere attività di promozione, però non è edificante, possiamo dire questo? Capodanno 2009 Mauritius, il vice premier ministro interno Alfano avrebbe sempre pagato e avrebbe solo ricevuto uno sconto, in questo caso a mio avviso è libertà del soggetto privato decidere che se ha un VIP e gli interessa per vari motivi praticare uno sconto, è giusto che pratichi uno sconto, non diventiamo eccessivamente su questo integralisti. Una cosa è un'attività di marketing per cui che avviene a tutti i livelli, non solo per i politici, per i cantanti, attori e quant'altro, altra cosa è se appunto viene azzerato un'intera vacanza, a mio avviso. Dopodiché si tratta sempre, ripeto, non di reati, ma se vogliamo di buon gusto in questo periodo. La cosa che però mi fa più imbestialire, lo ripeto e lo dico al sindaco Alemanno o al prossimo sindaco, c'è il ballottaggio nel fine settimana, per favore, non è possibile con quello che costa la giunta comunale di Roma non dover chiedere 39.000 euro di arretrati che faranno chiudere praticamente l'associazione Grande Cocomero a chi si occupa volontariamente di bambini con disagi psichiatrici. Abbiate almeno la decenza di tirarli fuori dai consiglieri comunali, dalle spese del consiglio comunale, dagli affitti, da quando... non ci posso credere che abbiate bisogno di 39.000 euro a costo di lasciare per stare i bambini con disagi psichiatrici. Attendo, smentite, volontariamente le daremo, chiamate pure 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso andiamo al convegno dei giovani imprenditori di Santa Margherita Ligure e iniziamo a entrare nei temi già dibattuti questa mattina. Allora, vedo già molti messaggi, in altri paesi si sarebbero dimessi, sì, sì, perché, dunque, non dire che fai, Barisoni, fai finta di indignarti, non dire che fai giornalista, devi solo dare notizie e non parlare di questo, ma perché? Perché dare queste notizie non è fare giornalista, ma lei, caro Michele da Padova, ma dove vive? Ma se lo lasci dire, o le va bene così, o le va bene così, che non sono notizie queste? Ma ce lo spieghi lei cosa sono notizie? Vabbè, dai, lasciamo stare con chi ha tempo da perdere. Invece vorrei tornare sui temi di questa giornata, perché questa mattina l'intervento del presidente degli industriali, giovani industriali, Jacopo Morelli, è stato molto forte. Ha parlato anche di una speranza ormai persa, un rischio rivolta. Senza prospettive per il futuro, l'unica prospettiva diventa la rivolta. La storia l'ha mostrato varie volte. Le istituzioni democratiche vengono contestate e possono arrivare alla dissoluzione quando non riescono a dare risposte concrete a bisogni economici e sociali. Un anno fa, da questo palco, proprio qua, ce lo ricordiamo tutti, fu promessa una nuova legge elettorale in poche settimane, erano 3 settimane, poi sono diventate 2 mesi e poi chissà. Ad oggi nessuno ha potuto, o meglio, voluto cambiarla. E gli elettori, noi cittadini, sono stati chiamati di nuovo a ratificare anziché a scegliere. E non è un caso, absit iniuria verbis, se l'impreparazione non è scesa con il riproporsi di candidati talvolta impresentabili, ma più spesso non adeguati e incompetenti. Allora, persa la speranza, rischio rivolta, hanno subito avuto un'ampia eco tra le agenzie di stampa le parole del presidente dei giovani industriali di Confindustria, Jacopo Morelli, che è qui nostro ospite negli studi di Radio 24 a Santa Margherita Ligure. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Addirittura rischio rivolta? Chiunque fa il mio mestiere, che è quello di fare l'imprenditore, ma cioè di stare tra la gente, per le strade, con i propri collaboratori, nota che c'è in Italia un grandissimo malessere, una grandissima insoddisfazione. Questa comunque sia un'energia. Noi pensiamo che questa energia debba essere convogliata in maniera positiva e quindi questa possa diventare invece energia per instaurare nel nostro paese una rivoluzione benefica, una rivoluzione positiva, che è quella di liberarci, da qui il titolo del nostro convegno, Scateniamoci, delle troppe catene che a questo punto opprimono il nostro paese. La prima è quella di una tassazione sul reddito del lavoro e impresa che non appare in nessuno dei grandi paesi industrializzati. Ecco, voi vedete, il suo appello è stato molto rivolto anche alla cosiddetta classe dirigente, classe politica. Non chiediamo miracoli, ma statisti. Che cosa vuol dire? Vuol dire anche qui, per dare un messaggio positivo, che non è che ci vogliano dei decenni per cambiare la situazione del paese, bastano pochi anni e soprattutto basta iniziare a mangiare, a tagliare, a affettare questo elefante, questo pachiderma di ostacoli anche posti dalla pubblica amministrazione, una fetta alla volta, un pezzo per volta, in maniera concreta. Non servono appunto dei miracoli, non chiediamo ai governi di fare miracoli, ma di lavorare sulla competitività del paese. Per questo ho detto anche miracoli no, statisti sì. E su questo, insomma, è chiaro il tempo che voi date, un tempo molto molto breve. Della priorità, abbiamo già detto, cioè per voi come per tutta la Confindustria, le risorse devono essere destinate addirittura nemmeno all'IMU, ma alla riduzione del carico fiscale sulla busta paga, il cuneo fiscale, quindi immagino più sulla parte che resta al lavoratore che su quella che resta alle imprese. Assolutamente, anzi ho aggiunto che per la parte delle imprese noi saremo anche disponibili eventualmente a soprattutto come giovani imprenditori a dire vabbè, i soldi che eventualmente andiamo a riprendere dalla riduzione del carico fiscale li reinvestiamo, troviamo dei meccanismi per la capitalizzazione delle imprese e quindi nuovi investimenti, perché investimenti e lavoro sono le due strade essenziali per far riprendere il paese. Il ministro Giovannini, che sarà poi nostro ospite comunque dal palco, ha detto che entro fine giugno arriverà il pacchetto lavoro, che dovrebbe avere, se abbiamo capito, anche degli sgravi fiscali di carattere contributivo soprattutto per i neoassunti, e sulla cassa integrazione invece se ne riparlerà a settembre. Poi comunque chiederemo conferma al ministro. C'è un altro aspetto che mi interessava. Lei ha detto l'Italia di oggi è come quella di Machiavelli, ma nel senso che il principe ad essere più temuto che amato o cosa? Vabbè, perché temuto non mi sembra, insomma, che nessuno no, sia temuto, allora, nemmeno se per, amato forse. Se però per questo, allora, per sempre citare Machiavelli, direi che deve essere invece forte come lo leone e furbe come la golpe, come la volpe. No, ho detto che oggi, 500 anni fa, nell'estate, Machiavelli del 1513 appunto iniziava a scrivere il suo Principe in un'Italia che era dilaniata da lotte intestine da grandi incertezze, e ci sono tante similitudini. E chi è che potrebbe essere il Borgia della situazione? No, più che il Borgia o il Duca di Valentino, noi abbiamo bisogno in questo caso di una classe dirigente, un gruppo dirigente, in questo ci metto anche gli imprenditori, che abbiano idea chiara di quali sono i grandi interessi nazionali del nostro paese e lavorino in unica direzione. E questi interessi sono ripristinare condizioni di competitività perché in questo paese si torni ad investire anche dagli investimenti esteri. Oggi noi facciamo fatica ad attrarre un euro. B, che sia un paese dove ci siano persone che da tutto il mondo desiderano venire qui non solo a lavorare ma a fare il proprio progetto di vita. Per la prima volta quest'anno abbiamo un dato secondo me molto preoccupante: ci sono più emigrati che immigrati, quindi più persone che vanno via di quanto non vengono. Queste sono, tra l'altro, quelli che vanno sono le risorse di solito più preparate, che hanno più voglia in questo caso di fare e di mettersi in gioco. Ecco, noi questa tendenza la dobbiamo contrastare. Ecco, però, per non dare l'impressione che spesso si ha in questo paese che le riforme, l'impegno, gli sforzi debbano sempre fare gli altri, è giusto chiedere alla politica tempi diversi, però forse, e mi ricollego anche alle parole del ministro Giovannini, qualche sforzo in più possono farlo anche i giovani imprenditori, gli imprenditori in generale, ma io parlo con lei dei giovani. Giovannini ha detto, attenzione, citando l'esempio della Silicon Valley, andate a visitarla, pochi di voi ci sono stati, ma non come viaggio studio e basta, ma per capire che là dove si generano a livello mondiale il maggior numero di nuove attività, di nuove start-up, di giovani poi, fallire non è un'onta, non è una macchia, ma il fallimento è un passaggio, un passo dell'esperienza di un imprenditore che viene poi subito recuperato da una nuova iniziativa. Cioè è un errore, si possono fare errori, ma si riparte. E come dire, attenzione anche voi a non fossilizzarvi su vecchie logiche. Da noi il fallimento viene visto come, no, l'elemento che ti caccia fuori dal tuo percorso imprenditoriale. Ora, nessuno vuole che il fallimento diventi una bella cosa, però è vero che forse anche voi ragionate con logiche delle volte che appartengono a periodi passati, o no? Beh, io l'ho detto esplicitamente, forse non sono stato abbastanza chiaro nel mio discorso, invece, che il fallimento non è una stigma, soprattutto una persona che fallisce è stata onesta, quindi non fa una bancarotta fraudolenta, non ha niente da vergognarsi. Il fallimento, semmai, diciamo, da condannare sono comportamenti meschini. Poi sa, io nel lontano 2000, inizio del 2000, appena laureato, sono stato insieme ai miei due colleghi dell'università, che poi sono diventati miei soci, 60 giorni nella Silicon Valley. Avevamo preso un monolocale a Palo Alto. C'era certamente una grande energia e una voglia di fare. Poi noi siamo tornati in Italia, abbiamo trovato un ecosistema, quindi un insieme di regole di proprio per fare impresa, comunque completamente differente. Questo. No, questo è importante, anzi bisogna anche ricordare che gli imprenditori italiani che solitamente vanno a lavorare in Silicon Valley sono imprenditori che diventano seriali, cioè non solo fanno un'impresa ma ne fanno più di una e spesso di successo, cosa che è molto difficile per tutta una serie di ragioni fare qua in Italia. Semmai mi piace sottolineare un'altra cosa che oggi abbiamo fatto, che è quella dell'autocritica, cioè che ci sono anche molti limiti ancora nel nostro sistema imprenditoriale, perché è vero, la produttività la aumentiamo riducendo anche i costi di produzione, ma lo possiamo fare riorganizzando quelli che sono le modalità del lavoro, i processi produttivi e organizzativi, anche attraverso tutti gli strumenti che vengono dati ormai dall'economia digitale. Se questa è diventata un'abitudine per le imprese giovani, non è vero, ahimè, per la stragrande maggioranza di un certo tipo di imprenditoria italiana. Un'ultima domanda. Voi confermate come giovani che rinuncereste a tutti gli incentivi alle imprese? Mi sembra che siano intorno ai 30 miliardi. No, sì, prego. E a patto di avere un'operazione simile sul carico fiscale per i lavoratori? Sì, questo, mi dica. In realtà, dunque, i trasferimenti alle imprese industriali sono meno di 3 miliardi. Il grosso di quella cifra sono sovvenzioni che vengono date, per esempio, anche a grandi imprese, per esempio, di trasporto pubblico, e quindi questo serve per calmierare i prezzi che altrimenti ferrovie dello Stato, municipalizzate e così via. Tutto il resto, diciamo, comunque da qualsiasi parte mi dica dove dobbiamo sottoscrivere, rinunciamo a tutto, però tagliamo questa pressione che è veramente, ha raggiunto dei livelli da confisca sui redditi da lavoro e da impresa. Tanto ho scoperto che le ferrovie dello Stato, non si arrabbi Moretti, ma prendono ogni anno 250 milioni di euro ancora sulla base della nazionalizzazione delle vecchie dall'Enel, e quindi li paghiamo noi in bolletta come oneri impropri, ancora per via della nazionalizzazione dell'energia elettrica italiana, quindi degli anni 60, perché alcune centrali di generazione elettrica erano delle ferrovie, furono compensate. Mi sembra che potremmo anche chiudere con la compensazione. Non si arrabbi Moretti, per carità, non è lui che la vuole, è la legge che lo decide, però insomma sono quelle cose che lasciano un po' perplesso, che 250 milioni l'anno non sono esattamente briciole. Che cosa si aspetta che accada domani, invece, quando avete la seconda giornata di lavori? Chiuderà il presidente di Confindustria Squinzi, ma ci saranno altri importanti interventi dei ministri che voi avete chiamato qui a Santa Margherita. Il ministro Chienge a parlare, esatto. In questo caso, di, soprattutto a noi interessa molto, del fenomeno dell'immigrazione. Noi abbiamo ripetuto che l'immigrazione deve essere una questione affrontata con serietà, non con paura. Gli immigrati sono una risorsa fondamentale per l'impresa e per un paese in particolare come l'Italia, che è il secondo paese più vecchio del mondo. Bocca al lupo, grazie. Crepi. Poi se ho ben capito, mi tocca una curiosità, a ottobre invece che a Capri la farete a Napoli, in uno stabilimento industriale dove avete già deciso. La location la stiamo ancora valutando, ma l'abbiamo spostato a Napoli quest'anno in solidarietà della città, che ha grandissimi disagi, l'ultimo tra l'altro drammatico, l'incendio di Città della Scienza, che è un luogo simbolo, e quindi abbiamo deciso di essere presenti sul territorio. Beh, una scelta che, come lei sa, noi appoggiamo in pieno, per quanto non la nostra opinione ci fa piacere, conti invece poco, ma insomma nulla, a Capri si sta benissimo, e questo, diciamo, è una banalità, anche il tecnico annuisce visto che ne abbiamo fatte tante di dirette, però però, in periodi particolarmente difficili i segnali, i simboli sono importanti, valgono per la politica quando diventa casta, valgono anche per gli imprenditori, quindi forse farlo in un luogo, diciamo, depresso, simbolico dal punto di vista delle difficoltà industriali è obiettivamente meglio che farlo a Quisisana. E d'altronde quest'anno l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto un trasferimento, abbiamo spostato il convegno classico di Cortina, l'abbiamo fatto a Mirandola, proprio tra le persone, tra le aziende terremotate. È chiaro, insomma, sono tutti posti bellissimi, però bisogna pensare anche all'immagine non che si trasmette, mettiamola così, è meglio Mirandola di Cortina, è meglio Pozzuoli, Pomigliano o dove si farà che Capri, senza nulla da togliere. A Capri e a Cortina, non voglio adesso dover rispondere alle sms di chi dice ce l'hai con Capri, ce l'hai con Cortina, dopodiché sopravvivo. Grazie a Jacopo Morelli, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Adesso andiamo in pubblicità, meteo, e poi commentiamo la borsa. Un po' ridotto il guadagno nel finale, più 1% Milano. A chi ci chiede se saremo il 19, Rita mi sembra che lo chieda, 19 questo mese a Pitti, sì, saremo, per parlare di moda, uno dei settori ahimè più massacrati dalla crisi assieme all'auto e ad altri, saremo per parlare del Made in Italy in diretta da Pitti, quindi salone della moda di Firenze, mercoledì 19 giugno, meteo e pubblicità. Alle 17:45 minuti riprende con un po' di ritardo Focus Economia, colpa mia. Dopo aver sentito il presidente di Confindustria Giovani, Jacopo Morelli, vi ricordo che siamo qui in diretta a Santa Margherita Ligure, vi vorrei far ascoltare un passaggio del presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha fatto un riferimento implicito, senza mai citarlo, al caso Ilva, molto ascoltata, devo dire, da Boldrini. Basta i conflitti laceranti ambiente salute contrapposto al lavoro. Di quale innovazione vogliamo essere protagonisti? Vogliono essere protagonisti i giovani imprenditori italiani? Di quale innovazione? Ritengo che dovremmo rimettere al centro il valore sociale dell'impresa, il cui profitto dovrebbe essere un mezzo per accrescere il benessere complessivo della popolazione, non l'unico fine da perseguire, in una corsa eterna al ribasso dei costi sociali e ambientali. Tutto quello che accade intorno a noi ci dice che quel che è andato in crisi è un vecchio modello di sviluppo, e anche il presidente Morelli oggi ce lo ha ricordato, è un vecchio modello di sviluppo, e che occorre impegnare le migliori energie intellettuali e sociali del nostro Paese per progettare e costruire un futuro qualitativamente diverso per l'economia. Non può più riproporsi il conflitto lacerante tra produzione e tutela dell'ambiente, tra lavoro e salute. E su questo, come non essere d'accordo con la Presidente della Camera, poi però ognuno si pigli le sue responsabilità, visto che poi il riferimento era anche alla vicenda Ilva, i proprietari per quello che riguarda la famiglia Riva, ma anche la magistratura, che devo dire, delle volte nell'intervenire potrebbe tener conto anche, diciamo, delle conseguenze ultime e finali. Lo dico perché sappiamo tutti qual è l'accusa alla magistratura di Taranto, e cioè che se tu blocchi tutto, sequestri tutto, non vanno avanti neanche i risanamenti, le bonifiche imposte. Poi altra cosa è, ed è giusto che si lavori sui Riva, quello che hanno fatto o non hanno fatto i Riva, ma se tu sequestri tutto, fai finta di non capire che blocchi gli impianti, blocchi la produzione, mandi a casa le persone e tra l'altro non permetti neanche il completamento, la continuazione delle opere di bonifica. Vabbè. La borsa allora, borsa oggi positiva, effetto dollaro debole soprattutto, devo dire, sui mercati a quota 1,3222, ma soprattutto l'euro, il dollaro sullo yen è a 97,18, e allora borsa sia. Più 1% secco Milano, più 1,50 Parigi, più 1,80 Francoforte, l'America guadagna l'1,15%, dati sulla disoccupazione americana oggi, ma soprattutto le decisioni di ieri da Banca Centrale Europea. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, diciamo le borse in generale, poi dopo il traffico andiamo sui singoli titoli. Sì, per quello che riguarda le borse, oggi c'era molta attesa per il dato sull'occupazione americana. Sono stati creati nel mese di maggio 175.000 nuovi posti di lavoro ed è stato un dato superiore alle attese degli analisti, ma un dato, come dire, buono ma non buonissimo, e questo fa sì che probabilmente le misure che ha la Fed di sostegno monetario potranno ancora continuare almeno nel breve periodo. Gli analisti si aspettano che una riduzione degli acquisti di titoli non avvenga prima di agosto, settembre, quindi ci sarà ancora per un po' di tempo un acquisto massiccio di titoli da parte della Fed, e questo ha premiato un pochettino tutte le borse europee. Il traffico, poi i singoli titoli, 349-238-6666 per gli sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Nice again. 17:51 minuti. Allora, Guido Maurino, al di là del quadro generale, oggi bene in borsa, soprattutto partiamo da Mediolanum più 4,41%, ma anche bene Fiat più 3,13% e ancora Autogrill più 3%. Qui Autogrill e Intesa San Paolo più 3% anch'essa. Mediolanum, Fiat e Autogrill. Sì, allora, per quello che riguarda Mediolanum si tratta soprattutto di un rimbalzo tecnico. Ieri il titolo era scivolato sotto la soglia dei 5 euro, oggi c'è stato un rimbalzo che ha riportato le quotazioni a 5,21 euro con un rialzo del 4,41%, pur non essendoci notizie particolari che hanno riguardato la società. Per quanto riguarda Fiat, ieri era stata duramente penalizzata sul mercato, qualche analista aveva ipotizzato la necessità di aumenti di capitale per finanziare la quota di Chrysler non ancora in possesso del lingotto. Oggi sul tema è intervenuto direttamente l'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ha detto che non nessun aumento di capitale, Fiat ha la liquidità per gestire l'operazione, quindi una rassicurazione dell'amministratore delegato che ha consentito una ripresa delle quotazioni del titolo. Infine, dicevamo di Autogrill, più 3,09%, anche qui la società ieri in assemblea ha approvato l'operazione che prevede la scissione, diciamo, in due fra le attività di duty free da un lato e le attività, quelle di ristorazione autostradale dall'altro. L'azionista di riferimento, la famiglia Benetton, ha detto che si apre una nuova stagione e ha aperto anche la possibilità di nuove ulteriori operazioni che faranno le due nuove società, certo, in vista di possibili aggregazioni, diciamo, ognuno nei settori rispettivi di competenza. Quindi il mercato scommette un po' su quello che sarà il futuro delle due Autogrill che vedremo da settembre-ottobre. Auto e grill. Allora, Finmeccanica meno 1%, qui in realtà non c'è solo la vicenda delle nomine, ma ci sono anche notizie di mercato. Sì, perché le ferrovie belghe e quelle olandesi hanno sospeso un contratto che avevano stipulato con la Ansaldo Breda che è controllata di Finmeccanica, e questo ha avuto una ripercussione negativa sul titolo oggi. Della vicenda, per capire anche un pochettino l'importanza che ha, si sta occupando addirittura il ministro degli esteri, che vuole vederci chiaro, e una nota appunto ha detto che segue da vicino la situazione. Ancora, per quello che riguarda Azimut, meno 1%, novità su Azimut? No, nessuna novità. Okay. E invece, tra i titoli minori, però tra i migliori e i peggiori, Risanamento, più 6,60%, no? Torna in campo Zunino qui. Torna in campo Zunino, l'immobiliarista che aveva creato la società, diciamo, nel 2002, aveva lasciato nel 2009 travolto dai debiti, adesso si prepara a riprendere in mano la società, ha comunicato agli azionisti che dopo che la società è finita sostanzialmente sotto la protezione del 182 bis della legge fallimentare, quindi una situazione di grave crisi, era stata praticamente salvata dalle banche che oggi sono i suoi principali azionisti, ha presentato un'offerta per rilevare le quote delle banche, per rilevare le quote delle sue holding che nel frattempo erano finite in liquidazione, e si dice pronto a lanciare un'OPA sul flottante, che a questo punto è solo più del 12%. Staremo a vedere nei prossimi giorni se veramente ha i mezzi, gli strumenti e anche gli appoggi finanziari, perché appunto sì, sembra che sia il Banco Popolare l'istituto che dovrebbe sostenerlo in questa operazione, e si vedrà nei prossimi giorni se ha. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa, il GR e poi di nuovo in diretta anche con il ministro Giovannini. Alle 18:08 riprende Focus Economia con una base che a sorpresa mi hanno messo da Milano. Siamo qui in diretta da Santa Margherita Ligure. Non so se va bene o comunque, vabbè. Agli ascoltatori là dove sentenza, noi invece torniamo sui temi di questa giornata economico-finanziaria. Perché? Perché prima di arrivare all'intervista con il ministro Giovannini, che tra pochi minuti ci raggiungerà qui nei nostri studi, vorrei parlare dell'altro dato economico importante di oggi, più atteso. Erano due gli appuntamenti internazionali, quello di ieri, e mi riferisco alla Banca Centrale Europea, tassi invariati, quello di oggi, i dati sulla disoccupazione americana, creati 175.000 nuovi posti di lavoro a maggio, più delle attese, le attese erano di 169.000, ma la disoccupazione dal 7,5% va al 7,6%. Dall'America, Mario Platero, buonasera Mario. Sì, buonasera. Beh, in effetti è stato un dato sicuramente positivo, anche perché creare 175.000 nuovi posti di lavoro in un mese comunque è rassicurante, soprattutto in un contesto congiunturale in cui sappiamo che l'economia mondiale, insomma, non fa benissimo, soprattutto quella europea è in recessione piuttosto preoccupante. Sappiamo quanto l'Europa sia un partner commerciale importante per l'America, e ci sono una serie di segnali anche all'interno degli Stati Uniti che avrebbero così suggerito prudenza, per esempio i tagli automatici alla spesa per ridurre il disavanzo pubblico. Ecco, a fronte di questi segnali che potevano essere prudenti e negativi, l'economia americana è riuscita comunque a produrre questo straordinario aumento, questo buon aumento di posti di lavoro. C'è stato un dato invece un po' meno rassicurante, cioè il tasso di disoccupazione, cioè lo stock dell'occupazione, è aumentato al 7,6% dal 7,5%. Sì. Sono variazioni, come dire, impercettibili, minime, però certo. Sono delle variazioni che comunque hanno dato dei segnali al mercato, per cui l'indice Dow Jones è in aumento, l'1,10%, più 166 punti, siamo di nuovo tranquillamente al di sopra di quota 15.000, lo stesso più o meno per gli altri indici, intorno all'1%, sia per Nasdaq che Standard & Poor's. E perché questo dato è significativo? Perché conferma che la ripresa americana c'è, ma non è una ripresa più forte di quello che la Federal Reserve avrebbe potuto voler osservare, e dunque ci sarà una gradualità nell'exit strategy della Federal Reserve, non ci sarà una manovra aggressiva, si è molto parlato di questo, come sai, negli ultimi giorni. E questa era appunto la cosa più importante, perché se ho ben visto, come tu già anticipavi, gli analisti dicono beh, con questi dati sul lavoro la Banca Centrale Americana manterrà la sua politica accomodante, quindi di acquisti anche titoli di Stato, stampaggio di monete e quant'altro, no? Cioè questa è l'indicazione che poi interessa ai mercati, Mario. Sì, dunque manterrà per i prossimi mesi questa politica di acquisto di circa 85 miliardi di dollari al mese di acquisto in buoni del tesoro, in titoli del tesoro americani e in alcuni asset relativi al settore immobiliare, però ecco, attenzione, che su questo ne approfitterei per fare un po' di chiarezza, cioè dobbiamo partire dal presupposto che comunque saranno due mesi, saranno quattro, saranno cinque, però la Fed è arrivata alla fine di questa sua manovra accomodante e c'è già un percorso abbastanza ben delineato. Tra l'altro proprio oggi sono uscite delle indiscrezioni secondo cui alle riunioni di giugno del Federal Open Market Committee la Federal Reserve segnalerà che ci saranno dei movimenti di avvicinamento verso una fermata, verso un rallentamento di queste operazioni di acquisto. E l'idea qual è? Che da qui, diciamo, a agosto, ottobre, la Fed continuerà nei prossimi mesi, nell'immediato, a comprare, dopodiché comincerà a rallentare, da 85 si passerà magari a 60, poi a 50, e con l'idea di portare a termine, di chiudere questi interventi già nel corso del 2014. Ecco, la Fed sta cercando di fare l'operazione più graduale possibile, sta cercando di comunicare al mercato che questa cosa succederà, e però il mercato, come sappiamo, è molto fragile, per cui nel momento in cui questa cosa si verificherà, nel momento in cui la Fed annuncerà formalmente che sta cominciando a rallentare con queste sue operazioni di acquisto, potremo avere un momento di crisi di mercato. L'idea è che sarà una crisi a breve, perché per l'anno prossimo, tanto per fare un salto in avanti, il tasso di disoccupazione da qui a un anno è previsto al 6,5%, e quindi sui livelli a cui appunto la Federal Reserve dice va bene, a quel punto come tasso di disoccupazione a noi va bene. E non solo, ma nonostante le interruzioni di acquisti, ci saranno degli aumenti dei tassi sui Fed Fund, però passeranno dallo 0 allo 0,25%, per cui a un certo punto quindi il mercato si renderà conto che l'impatto sull'economia reale di un movimento dei tassi che dallo 0 al 0,25% sarà tutto sommato minimo, e quindi si ritornerà a crescere e l'ottimismo dovrebbe rientrare. E quindi per ora, perché molti ci chiedono come fa a stampare soldi una banca, fa come fa la Federal Reserve, una banca centrale, compra ogni mese 85 miliardi di titoli di Stato americani e li compra stampando moneta. Però chiarissimo anche il tuo ragionamento, Mario Platero, anche quando ridurrà l'acquisto di titoli di Stato americani e dovesse alzare i tassi di interesse, sarà un procedimento così graduale da creare magari un po' di scompenso all'inizio, ma da essere riassorbito nel breve. Grazie Mario Platero, in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente del Sole 24 Ore. Adesso andiamo sul traffico e poi invece torniamo agli disoccupati di casa nostra, perché uno può pensare quello che vuole dalla ricetta americana, ma gli effetti li sta producendo. La disoccupazione è prevista in calo di un punto percentuale l'anno prossimo e l'economia è ripartita. Da noi invece la disoccupazione ha raggiunto livelli record storici dal 77, da quando esiste la serie storica, record storici anche nell'area euro, ed è prevista in aumento anche l'anno prossimo. Poi ognuno traga le sue conseguenze e conclusioni su quali scelte di politica economica hanno più funzionato, cioè quelle dell'Europa del Nord e della Germania o quelle degli Stati Uniti d'America. Traffico! Minuti, ultima parte di Focus Economia qui in diretta da Santa Margherita Ligure. Chiediamo non miracoli ma statisti, e poi ancora sul fisco la priorità è il cuneo, non l'IMU, e ancora serve un reddito minimo a tempo determinato, e ancora attenzione, hanno svuotato il domani di speranza e colmato il presente di angoscia, c'è il rischio rivolta. Queste le richieste che sono arrivate oggi dai giovani imprenditori, la più forte di tutte quella del Presidente Morelli, e ci ha raggiunto nei nostri studi qui a Santa Margherita Ligure il Ministro per il Lavoro Enrico Giovannini, nostro ospite molte altre volte, ma quando era ancora Presidente dell'Istat. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora Ministro, la sua risposta alla proposta di Morelli sul salario minimo ha un po' gelato la sala, non ci sono i soldi? No, bisogna capire di che salario minimo stiamo parlando. Quello di Grillo? Beh, quello di cittadinanza è tutt'altra cosa dal cosiddetto reddito minimo di inserimento. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che costruire un sistema di sostegno al reddito per tutti quanti, indipendentemente dal comportamento delle singole persone, sarebbe certamente auspicabile, ma sappiamo dagli studi che produce anche effetti negativi, perché per esempio disincentiva l'offerta di lavoro. Allora qui stiamo parlando in realtà seriamente di un sistema di sostegno al reddito che però spinga le persone a cercare un lavoro, a impegnarsi, magari anche ad avviare nuove attività, perché è chiaro che il sostegno al reddito non può essere per tutta la vita. D'altra parte però vorrei ricordare che proprio la sperimentazione che sta partendo in 12 grandi comuni, la cosiddetta nuova social card, riguarda proprio un sostegno generalizzato delle famiglie numerose in cui il capofamiglia ha perso il lavoro e in condizioni di difficoltà sociale, quindi stiamo sperimentando proprio questo. Ecco, su questo però, insomma, abbiamo capito che il reddito di cittadinanza manco se ne parla, ci possono essere altre forme. Lei però ha detto, attenzione, noi siamo un governo che non ha fatto la manovra cosiddetta estiva. Le chiedo, prima di arrivare a altre scadenze, sulla cassa integrazione in deroga, visto che lei parlava di risorse. Allora, da un lato cosa dobbiamo attenderci a settembre, ma dall'altro resta valido il suo principio che va rivisto l'intero strumento della cassa integrazione a partire da quella in deroga? Bisogna distinguere tra la cassa integrazione e gli altri ammortizzatori in deroga. Per la cassa integrazione abbiamo la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria, che sono funzionali alla riorganizzazione di breve o di medio termine di un'impresa. Cioè l'impresa c'è ancora e c'è la speranza che attraverso una riorganizzazione si possa ripartire. Dopodiché c'è la cosiddetta mobilità in deroga, che è uno strumento molto diverso di accompagnamento proprio delle persone, quando però il posto di lavoro ormai non c'è più, quando ormai l'impresa non esiste più. Allora noi abbiamo bisogno di superare l'idea che questo ammortizzatore, pur fondamentale nel breve termine, possa essere protratto all'infinito, e dobbiamo riportare le persone a lavorare. Per questo contiamo di riformare i servizi all'impiego, competenza che al momento è di tipo regionale. Naturalmente dobbiamo rispettare la Costituzione, ma possiamo fare passi avanti ed eventualmente accompagnare verso la pensione chi è ancora in deroga, chi è appunto in mobilità e ormai difficilmente, mancandogli pochi anni, potrà rientrare nel sistema produttivo. Questo è il tipo di riforma che abbiamo in mente. Ecco, però mi scusi se insisto, una riforma del genere prevede dei tempi tecnici anche parlamentari. Voi a settembre dovrete rifinanziare la cassa integrazione. Sono 2-3 miliardi adesso a spanne. No, attenzione, non vuol dire necessariamente passare per magari il Parlamento. Magari può essere di spostare di altri 3 mesi, da settembre andiamo a dicembre, andando avanti di 3 mesi in 3 mesi. Allora, non è il massimo per chi è in deroga. Il fatto che il governo abbia trovato, senza fare manovre aggiuntive, 1 miliardo aggiuntivo per gli ammortizzatori in deroga, è stato un segnale molto forte, che non si vuole lasciare indietro nessuno. Gran parte però delle modifiche di cui sto parlando potrebbero essere fatte in un accordo tra lo Stato e le Regioni, in primo luogo. In secondo luogo, ripensando il sistema degli ammortizzatori sociali, per questo il sottosegretario della Ringa la prossima settimana avvia proprio questo tavolo, e naturalmente se servono delle modifiche normative si faranno, ma possono essere fatte con urgenza anche in questo caso. Il punto fondamentale è che tamponare il 2013 senza pensare come dal 2014 si possa e far evolvere il sistema vuol dire lasciare questo rubinetto aperto per sempre. Naturalmente la ripresa economica è quella che deve prosciugare questo quest'area di grande disagio, ma sappiamo che la ripresa che attendiamo per fine anno non sarà così vigorosa da cancellare tutto questo in pochi mesi. Ecco, siccome è arrivata l'estate, noi non ci rivedremo magari fino a settembre, no? Le auguro anche magari una bella ci estate, sentiamo però per radio. Ecco, magari ci sentiamo per radio, però su questo non mi lasci col dubbio dall'estate, ma tirate fuori un altro miliardo a settembre per intanto che sistemate l'accordo con le regioni, oppure immaginate, cioè, di arrivare fino di scavallare il 2013 magari iniziando il 2014 con un accordo? Assolutamente, ma l'accordo speriamo di trovarlo prima, che abbia una soluzione ponte per il 2013 e per il 2014, ma che soprattutto cominci a orientare nella direzione giusta. Quindi un accordo ponte, potremmo e ricordo che appunto a ottobre, con la legge di stabilità, in cui soprattutto grazie ai margini che la chiusura della procedura dei deficit eccessivi apre a partire dal 2014, è possibile a ripensare molte cose, non solo questa. Ecco, su questo, per inciso, poco fa, 20 minuti fa, mezz'ora fa, l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha dichiarato: abbiamo preso l'impegno di stabilire una base di occupazione che sia decente in questo paese. L'impegno però deve essere tutti quanti. Non è un po' poco, cioè dopo 3-4 anni di Fabbrica Italia, progetti vari, dire abbiamo preso l'impegno di ristabilire una base di occupazione che sia decente in questo paese. Decente è un termine che può essere variamente interpretato, no? Sì, ricordiamo naturalmente che Lillo lo usa per dire il lavoro decente come modello complessivo internazionale. Ma mi sembra una... Però Marchione non lavora a Lillo, nel senso, non ancora perlomeno. Mi sembra un'affermazione importante da approfondire naturalmente. Come ho cercato di dire anche questa mattina, ci sono tante famiglie che magari non sono state colpite duramente dalla crisi e tante imprese che attendono un segnale di ripartenza. Noi economisti spesso mettiamo nei nostri modelli dei meccanismi per cui una volta toccato il fondo bisogna per forza risalire. La fiducia da questo punto di vista è un elemento cruciale per cambiare atteggiamento. Se questo segnale che viene dalla Fiat, spero con molti altri segnali che stanno venendo anche da altre imprese, che stanno decidendo di assumere anche per il futuro e non soltanto attendendo la ripresa, forse riusciamo a invertire questa sfiducia. Ricordo anche che il settore automobilistico, in particolare a causa della crisi, ha avuto un crollo delle vendite fortissimo. E quindi capisco che di fronte a tutta una area di sottooccupazione, la cassa integrazione e così via, Marchionne possa essere prudente, ma dal punto di vista, diciamo, del segnale che manda, spero che sia un segnale che poi venga seguito da molti altri. All'Italia e Indesit sono due storie e due vicende molto diverse tra loro, però forse un filo rosso si può trovare nel dire che la strada maestra, se ho ben capito le vostre intenzioni, dovrebbe essere quella di arrivare il più possibile alla solidarietà, ai contratti di solidarietà, escludendo o evitando, limitando la cassa integrazione e gli esuberi, perché l'Indesit su questo all'inizio è stato un po', il messaggio è arrivato un po' ambiguo. Ma io vorrei, visto che la voglio usare come due casi paradigmatici, ricordare anche come siamo arrivati qui. E cioè siamo arrivati con 10 anni di perdita di competitività e di graduale restringimento del mercato, che naturalmente non può che colpire le imprese nazionali che si sono fatte togliere una parte del mercato dai competitor internazionali. Questo lo dico perché pensare che in pochi mesi questo trend, che purtroppo dura da 10 anni, si inverta rapidamente è fuori delle nostre speranze. Ma naturalmente il tema della solidarietà, come Alitalia per esempio sta facendo, è un tema importante. Non a caso nel decreto di rifinanziamento della cassa in deroga io ho voluto proprio rifinanziare i contratti di solidarietà. E perché questo? Perché ci dice l'economia comportamentale, questa nuova branca del pensiero economico, che l'essere lontani completamente dal lavoro fa rapidamente non solo perdere capitale umano, ma spingere persone verso la depressione, perché il lavoro è un elemento fondante della dignità umana e quindi del ruolo sociale che ognuno di noi svolge. Allora, sistemi di rotazione della cassa integrazione, sistemi di solidarietà che consentono comunque di avere tutti i lavoratori agganciati all'attività produttiva sono, a parità di input di lavoro complessivo, nettamente migliori rispetto a un taglio netto. Ancora due domande, mi scusi. Per quello che riguarda, lei poco fa ha promesso che a fine giugno, su richiesta, arriverà il pacchetto a cui state lavorando, che dovrebbe introdurre anche sgravi fiscali, se ho ben capito, sgravi contributivi sulle neoassunzioni. Avete una stima delle risorse? Perché il Premier Letta ha detto per ora le poche risorse che abbiamo nel 2013 le concentreremo lì, poi c'è anche un 2014, ma insomma, più o meno, per capire, siamo a metà anno, sono 4, 5, 3 miliardi. La ragione per cui siamo stati finora abbastanza prudenti nell'indicare cifre è perché una parte consistente di questo finanziamento verrà dai fondi comunitari che non sono nella disponibilità del governo, ma devono essere riprogrammati, rinegoziati con le regioni. Noi siamo ormai alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013, è abbastanza chiaro che una parte di questi fondi non potranno essere impegnati entro il 2013 dai progetti regionali ed è per questo che sta partendo un negoziato con le regioni. Quindi la prudenza non è perché non abbiamo idea dei numeri potenziali complessivi, ma perché le risorse effettive devono passare da questo negoziato con le regioni e con la Commissione, cosa che però si può fare, spero, nei prossimi giorni. Un'ultima domanda, si discute molto della riforma Fornero, ma per lei, per dirla con Kissinger, parafrasando Kissinger sull'Italia, la riforma Fornero è più un asset o una liability, più una zavorra o un volano? Se stiamo parlando della riforma del mercato del lavoro, credo che sia un asset. Il fatto di avere... Solo un asset. Il fatto di aver fatto una riforma complessiva del mercato, che però richiede quella manutenzione che tra l'altro era già prevista dalla riforma stessa, è il modo giusto di procedere. Ripensare che noi ogni anno, ogni due anni, smontiamo tutte le regole e le rimontiamo. Ma come si fa a fare impresa in una situazione? Quindi la tenete così? No, non la teniamo così. Noi cambieremo quello che va cambiato sulla base dei dati disponibili e non semplicemente di ideologia e del confronto che abbiamo già avuto con le parti sociali che ci hanno identificato dei punti e vorrei sottolinearlo, negli incontri che abbiamo avuti ho trovato una consonanza di vedute su alcuni aspetti sorprendente che se vuole va insieme di pari passo con l'accordo sulla rappresentanza. Certo. Ecco, però, e concludo, pensare che si fa solo flessibilità e non prospettiva di medio termine, soprattutto per i giovani, questo è sbagliato e credo che non sia nell'interesse di nessuno, in particolare delle imprese, le quali, vorrei ricordarlo, hanno un livello di spesa per formazione per dipendente, le imprese italiane, nettamente inferiore a quello delle imprese europee. Quindi vuol dire che l'investimento in capitale umano va fatto da tutti, dal settore pubblico naturalmente, ma anche dalle imprese. E serve tempo per far questo. Un contratto di 6 mesi non è certo il modo migliore per formare il capitale umano. Ministro, io la ringrazio, devo dire che lei era molto equilibrato già quando faceva il presidente dell'Istat. Adesso con questo governo social-democristiano, una risposta che dice sia asset che liabilities va benissimo, mi sembra assolutamente in linea, ma siamo tutti d'accordo. Grazie al ministro per il lavoro, Enrico Giovannini. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa settimana e per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Pietro Lacorte e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica qui a Santa Margherita Ligure, Mauro Del Con, Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni un augurio di un buon fine settimana e se lavorate a maggior ragione ancora con più forza. Radio 24, la passione si sente.